Euroreportage. La Bulgaria e la nuova cortina di ferro anti-migranti dell'Europa, di Raffaella Calandra. Il destino, a volte, lo scrivono anche un paio di forbici, se servono a tagliare il filo spinato dell'Europa, e un social network, se questo porta la notizia dell'apertura della Germania ai rifugiati. Uncle Merkel, it's very good. She's good for more than Arab people. She's the first woman. She help us alone, nobody else. Con le dita il segno della vittoria, DR, quando parla di Angela Merkel e del nuovo corso che la sua decisione di ricevere i migranti potrebbe dare all'intera Unione Europea. Fa il segno della vittoria questo 17enne siriano davanti al centro di accoglienza Van Rompia di Sofia, non solo perché Monaco di Baviera sarebbe la destinazione sognata dalla sua famiglia, ma perché ora, racconta, molti e molti altri siriani, come lui, ancora di più degli ultimi mesi e ancora più velocemente, confidano di arrivare al cuore dell'Europa. Il passaparola è subito partito tra i quasi 2 milioni di rifugiati già in Turchia. A DR lo raccontano altri ragazzi come lui in attesa dall'altra parte del filo spinato che la Bulgaria ha allungato sul confine orientale nel tentativo di allontanare da sé popoli interi in fuga. Where do you come from? From Syria. Vengo da Aleppo e chiunque sia stato lì sa cosa sia l'inferno. Per questo, anche se ora sono bloccato qui in Bulgaria, sono comunque felice e salvo. Così tutti ci siamo messi in movimento, una città intera. Immaginate un fiume di gente che cammina per le strade con i morti ai lati. Abbiamo camminato velocemente con lo sguardo basso, il più possibile vicino ai muri per cercare di evitare i colpi dei cecchini. Così siamo arrivati in Turchia, io e i miei fratelli e tutta la mia famiglia. Siamo rimasti 2 mesi in Turchia, ma sapevamo già che era solo per poco. Nessuno vuole restare in Turchia. Tutti vogliamo arrivare qua, cioè in Unione Europea. Tante volte abbiamo provato invano ad oltrepassare il confine. Alcune siamo tornate indietro perché c'era la polizia bulgara, altre perché siamo stati bloccati da quella turca. Ho attraversato il confine a piedi dopo aver tagliato la barriera di filo spinato con le forbici. Sapevamo che la Bulgaria aveva costruito questo muro, ma ci eravamo organizzati e non ci ha fatto cambiare idea. Eccola la nuova cortina di ferro della Bulgaria. Superati i cancelli arrugginiti di epoca sovietica e abbandonati i checkpoint, si arriva alla nuova barriera di filo spinato, la cui funzione ora è lasciar fuori chi vuole entrare nell'Unione Europea. 4 metri di rete sotto l'occhio di telecamere su alti piloni. A ritroso, lungo il percorso battuto dai migranti, camminando per campagne sperdute, siamo arrivati proprio laddove il governo sta allungando il muro, tra fitti boschi di acace e pioppi e sparuti villaggi che non superano le 500 anime. La bandiera turca e quella comunitaria sventolano vicine a pochi chilometri al valico di Lesovo. La maggior parte arriva a piedi attraverso i boschi, sempre di più anche a bordo di camion e auto organizzati dai trafficanti. Lo racconta direttamente chi è arrivato così dopo 7 tentativi, come Ahmed, 20 anni, studi in fisica avviati in Siria prima che le bombe sconvolgessero tutto. Sono entrato in Bulgaria dopo 7 tentativi. A volte mi ha fermato la polizia turca, altre quella bulgara. Alla fine sono entrato nascosto in un camion dopo aver pagato 2.500 euro. Ho trovato il trafficante attraverso giri di amici in Turchia. Gli ho mandato i soldi con money transfer. E ora sempre di più si parte così. Con l'inverno alle porte, quando il mare diventa troppo pericoloso anche tra Turchia e Grecia, questa rotta via terra è destinata ad essere una delle principali. Lo sanno perfettamente i trafficanti, che stanno organizzando sempre più viaggi in camion e auto, come racconta direttamente chi è arrivato così. Lo sanno le autorità, che stanno allargando le strutture di accoglienza, conferma il direttore dell'Agenzia Statale per i Rifugiati, Nicola Kazakov. Nei primi 8 mesi, al confronto con l'anno scorso, le persone che hanno chiesto l'asilo sono quasi il doppio del passato. Il flusso sta salendo moltissimo. Nel mese di luglio c'è stato il picco. Noi registriamo e prendiamo le impronte di chi arriva qua e per questo ora preferiscono la Grecia. La capacità totale dei centri di accoglienza è di 5.130 persone e ora lo stiamo ampliando di altri 1.400 posti. Che questo sarà un inverno di intenso lavoro lo sanno pure al centro VN Rampa, vecchia scuola trasformata in struttura per migranti, dove tra panni stesi e materassi accatastati squadre di bimbi, parte dei 200 ospitati qui, inseguono un pallone. 3 mesi è la permanenza media prima che ricevano lo status di rifugiato, ma anche qui non sono mancati momenti di tensione quando i tempi si sono allungati, come racconta il direttore della struttura. Quasi tutti puntano ad andare in Germania, Austria, Svezia, conoscono tutti perfettamente aggravate le condizioni economiche dei vari paesi europei, ma sta aumentando pure chi, soprattutto tra i siriani, punta a restare qui, in Bulgaria, dove già vive una grande comunità di connazionali che già prima della guerra si era trasferita a Sofia, soprattutto per studiare. Da qui arrivano anche moltissimi trafficanti, come i 6 arrestati dopo che in Austria è stato scoperto un camion con decine e decine di morti asfissiati nella stiva. Ma le pene a cui vanno incontro sono minime, così il governo, annuncia il vice ministro all'interno Filip Gunev, punta ora ad inasprirle. Si tratta tra l'altro molto spesso di rifugiati che già hanno uno statuto, diciamo, ufficiale in Bulgaria e che molto spesso fanno questo tipo di attività non all'interno di una rete strutturata, cioè per arrotondare in qualche modo. I trafficanti rimangono lontani dal confine e questo tipo di attività illegale ha portato per la prima volta ad una criminalità non bulgara. Anche nel caso del tragico incidente in Austria, il capogruppo cittadino afgano, buona parte dei bulgari arrestati in qualche modo fornivano basso una nuova lanza. Molto spesso, tra l'altro, si tratta di camionisti. E rispetto a che cosa il governo bulgaro intende fare, c'è la volontà di aumentare il numero di azioni attraverso struttura specializzata che dovrebbe vedere insieme il Ministero degli Interni e la Procura, e saranno presentate delle modifiche di legge che dovrebbero rendere molto più pesanti le sanzioni. Nei paesini più romiti, lungo il confine orientale, dopo chilometri e chilometri di nulla attraverso l'antica Tracia, a chi tuttora resiste ad uno spopolamento tra i più alti d'Europa, in un paese dove lo stipendio medio è di 300 euro, spesso viene proposto di arrotondare pure così, conducendo attraverso i boschi migranti presi in consegna da organizzazioni criminali che restano assai lontane. Lo ammette Dimitrina, che a Lesovo gestisce un bar emporio che trasuda povertà da ogni parte. Prima arrivavano spesso gruppi di migranti fin qui. Me li ricordo infreddoliti dopo aver superato il confine e dopo un lungo cammino a piedi. Da quando hanno costruito questa barriera, in effetti, almeno qui ne vediamo di meno. Molti ora entrano un po' più avanti, là dove ancora non è arrivato il filo spinato. Mi dispiace per loro, mi fanno pena. Ma noi, lo confesso, ora ci sentiamo più sicuri con questa barriera. Comunque si controlla di più chi arriva e poi già siamo poveri noi. Non siamo in grado di accogliere nessun altro. Però qui diverse persone a volte vengono contattate per condurre in Bulgaria i migranti. Non so chi siano e dove siano i boss, ma qui diverse persone sono state anche arrestate per aver fatto da trafficanti. Loro qui vivono all'ombra di questa barriera che per il governo è nata anch'essa per colpa di Bruxelles, per colpa dei pochi fondi e della scarsa assistenza ricevuta, si difende il viceministro Gunev. Una struttura ingegneristica temporanea, non vuole essere un muro. Fondamentalmente questa struttura è uno strumento che rende più facile il controllo e la gestione del confine. L'obiettivo fondamentalmente è quello di convogliare i flussi di persone sia verso zone che sono più facilmente, diciamo, pattugliabili, sia verso i punti di attraversamento del confine ufficiale. Oggi in Europa c'è una solidarietà tra i Paesi membri fondamentalmente insufficiente. In questo momento ci sono 2.500 uomini del Ministero che pattugliano la frontiera, ci sono 3 ufficiali di Frontex. La Commissione europea, nel periodo dei prossimi 7 anni, ha segnato alla Bulgaria un contributo di 35 milioni di euro, largamente insufficiente. Questi pochi fondi in qualche modo ci obbligano a cercare delle strategie che ci permettano di gestire i nostri confini anche dal punto di vista economico. Ma nessun filo spinato, che toglieremo solo quando la situazione tornerà normale, dice, e nessun rigido inverno potrà fermare chi è in cammino verso una vita migliore. La storia ha già dimostrato che le cortine di ferro non fermano nessuno, né chi all'epoca cercava di uscire da questo paese, né chi oggi prova ad entrarci. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.